evviva Gesù che è vivo! Evviva Gesù che è vivo! Stasera ho uno strano titolo per il messaggio di questa sera. E il titolo del messaggio di questa sera, pensate un po', udite, è Fede che fa danni. Gesù vuole che noi abbiamo una fede che fa danni, una fede che spacca, ok? E andremo a leggere una storia che sicuramente voi conoscete ed è una storia che si trova in tutti e tre i Vangeli sinottici e per chi è qui per la prima volta, io voglio fare questo appunto. Noi siamo una chiesa che crede nella parola di Dio. Noi crediamo che la parola di Dio è il fondamento della fede e noi vogliamo credere in ogni parola, fatemi dire così, in ogni verso della parola di Dio. C'è un padre della Chiesa che ha detto: quando la Bibbia parla, quando la parola di Dio parla, è Dio che parla. Quando la Bibbia parla, Dio parla. Ed è per questo che noi vogliamo anche questa sera ascoltare quello che la Bibbia ha da dire. Non vogliamo ascoltare quello che il pastore ha da dire, non vogliamo ascoltare quello che Mirko ha da dire, sono sempre io. Comunque vogliamo ascoltare quello che la Bibbia, non è che sono due persone diverse che interverranno stasera, vogliamo ascoltare quello che la Bibbia ha da dire, perché quello che la Bibbia ha da dire è quello che Dio ha da dire. Amen? E quindi se è la prima volta che ti ritrovi qui e non sai quello che noi facciamo e perché facciamo tutto quello che facciamo, come lo facciamo, la spiegazione è solo una ed è molto semplice. Noi vogliamo allinearci a quello che la parola di Dio dice e insegna e istruisce. Non vogliamo seguire una dottrina di uomini, non vogliamo seguire una tradizione, non vogliamo seguire questa o quell'altra religione, noi vogliamo seguire il Dio della Bibbia, il cui nome è Cristo Gesù. Amen? Quindi stasera andremo a fare questa cosa che amiamo fare. Noi non solo leggiamo la parola di Dio, ma studiamo la parola di Dio, perché la parola di Dio va approfondita, va studiata, e voi siete privilegiati anche questa sera che io ho dovuto studiare per voi, ok? Però ho dei compiti a casa, quindi non vi rilassate, ho dei compiti a casa per voi. A partire da domani dovrete leggere 10 volte quello che io ho letto 20 volte, dovrete studiare meglio di me quello che io andrò a condividere. Naturalmente scherzo, però ecco, torniamo al messaggio di questa sera, è la fede che fa danni. Quando ho pensato a fare danni, sono venute un sacco di storie in mente, perché io, mio fratello Gianluca e mio fratello Jonathan, e c'è stata una stagione della nostra vita dove i nostri genitori, per grazia nostra, hanno potuto imparare e sperimentare l'amore, la pazienza, la sopportazione, l'autocontrollo, grazie Claudio, è tutto grazie. Se mamma e papà, la coppia pastorale che noi tanto amiamo, sono quello che sono, dovete dire grazie a me, a Gianluca e a Jonathan, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quando tornate a casa questa sera, date un bacio ai vostri bambini, quelli più belli, quelli proprio belli, belli belli, no? Quelli più belli sono quelli che testano la vostra pazienza, che testano il vostro amore, perché stanno facendo un ottimo lavoro nei vostri confronti, sono dei missionari mandati da Dio nella vostra casa per farvi esercitare l'amore, ok? E c'è stato, ci sta un applauso. Naturalmente l'applauso è partito da una persona single, che non ha la più pallida idea di che cosa significa avere figli. È vero, è stato figlio, quindi noi abbiamo contribuito, fratello, e quindi c'è stata questa esperienza, no? Una delle tante, ve la voglio raccontare, questa esperienza dove abbiamo fabbricato insieme quella che è una frombola. Chi è che sa che cos'è una frombola? Ci sono, queste sono le persone che sono venute stamattina. La frombola è una fionda antica, molto semplice la realizzazione. Tu prendi un laccio, lo puoi fare in pelle, in cuoio, lo puoi fare in stoffa, e questo laccio lo dividi a metà, nella parte che dividi inserisci la pietra, e per la forza centrifuga che applicherai, perché farai ruotare questa fionda, per l'azione centrifuga, lasciando un'estremità, la pietra libera e sganciata prenderà il volo. e andrà esattamente dove tu desideri che vada, se tu hai una fede che fa danni. E quindi io, mio fratello e l'altro fratello abbiamo avuto proprio questa fede nel credere che avremmo raggiunto l'estasi nel sperimentare questa frombola, e quindi l'abbiamo fabbricata, abbiamo pensato bene di metterci in uno spazio largo, no? Non nel giardino di casa, ma abbiamo pensato alla campagna che è di fronte a casa nostra, no? Quindi ci siamo già calati in una proprietà privata, già questo è un tutto dire. Io ero un pezzettino così, ero piccolissimo, me lo ricordo a malapena. E quindi catapultati in questa campagna, ci siamo messi lì e naturalmente l'onore spettava al più grande, il primogenito aveva l'onore di testare questa fionda, e quindi inserisce la pietra, comincia a far ruotare il tutto del marchingegno, e a un certo punto fa quello che si dovrebbe fare, lascia, sgancia un'estremità e la pietra a quel punto noi immaginiamo che prenda il volo dritto davanti a noi e che colpisca un albero, che colpisca... Niente di tutto questo, la pietra sparisce. Sparisce, non si trova, e per qualche istante eravamo perplessi. Questa fionda ha dei poteri magici, fa sparire le pietre. Quando è pi, per usare un'esclamazione barese, quando è pi sentiamo un rumore di un vetro che si frantuma. Ora questo vetro, ahimè, non era di fronte a noi, ma era alle nostre spalle. E noi avevamo pensato bene di lasciare alle nostre spalle casa nostra, proprio per impedire che la pietra arrivasse a casa nostra. E quindi ci girammo tutti e tre, increduli in un primo momento, e vedemmo questo buco nella finestra del vetro della cucina, e già immaginavamo la faccia di nostro padre. A quel punto mio fratello grande, da primogenito, tutto convinto di sé, che provava la fionda, ha cominciato a correre. Si è trasformato in Forrest Gump, nessuno lo riusciva a fermare. E già Luca dietro, io piccolino che non riuscivo a seguirli, e non capivamo neanche perché stavamo correndo, no? Perché c'era mio fratello grande che correva, e quello dietro, Gianluca, che gridava: perché stai correndo? E io dietro ancora che piangevo, perché mi lasciate sole? Io ero piccolino, sembravo una femminuccia là, disperata. E poi a un certo punto, no, ci chiamò a raccolta il nostro fratello maggiore, come ogni fratello maggiore deve fare quando fa danni, e disse: ragazzi, dobbiamo riparare il danno. Quindi andiamo a prendere tutti i nostri risparmi e presentiamoci con i nostri risparmi davanti a mamma e papà. Ed è in quel momento che il mondo mi è crollato, perché io avevo risparmiato questi soldi compleanno dopo compleanno, lira dopo lira, perché c'era la lira, non sono così vecchio, però c'erano le lire, no? E a quel punto il mondo mi è crollato, perché dici: io questa fionda neanche la volevo fare! Ma io non ho avuto manco il gusto di provarla e adesso devo pagare un vetro che non ho rotto io. E quindi, morale della favola, bimbi, continuate a fare danni per i vostri genitori, perché in quell'occasione mio padre ha sperimentato un'esperienza di pazienza divina, veramente dall'alto gli è scesa. Ora, ci sono quattro uomini nei Vangeli che fanno un danno allucinante. Fanno un danno mossi apparentemente dalla fede. Vogliamo leggere insieme questo brano. Lo troviamo in Luca, al capitolo 5, dal versetto 17. Un giorno sedeva insegnando Gesù. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui, non trovando da qual parte introdurlo a causa della folla. Salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie. Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, esclamò rivolto al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorificando Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio, pieni di timore, e dicevano: oggi abbiamo visto cose prodigiose. E un'altra versione dice: oggi abbiamo visto cose straordinarie. Io vorrei partire da quest'ultima frase. Quello che noi vediamo è la prassi di Gesù. Gesù entra in un luogo e le cose si cambiano. Gesù e la sua presenza in un posto stravolgono le situazioni e le vite delle persone. Chi viene malato è guarito, chi è morto risuscita, chi è depresso va via glorificando Dio, lodandolo e gioiendo alla sua presenza. E questa storia, come tante altre, ha un lieto fine dove tutti esclamano: oggi abbiamo visto cose straordinarie. Ed è questo il destino di vita che Dio ha per me e per te. Dio vuole per noi una vita straordinaria. E questa è una conferma, no, dall'alto. Dio vuole per me e per te una vita straordinaria. Tu non sei chiamato a vivere una vita ordinaria, tu non sei chiamato a vivere una vita nella normalità. Certo, tu vivrai una vita normale e ordinaria se rimani da solo in te stesso, ma se tu vivi quella che è l'opportunità e l'esperienza meravigliosa di rimettere la tua vita ogni giorno nelle mani di colui che fa cose straordinarie, la tua vita diventerà straordinaria, perché Dio ti chiama a vivere esattamente quelle stesse cose che Lui ha fatto vivere ai Suoi discepoli 2000 anni fa. Non è cambiato niente. Gli anni sono passati, i millenni sono passati, ma Gesù è lo stesso. Lui è risorto, Lui è vivo oggi. Gesù vuole fare esattamente le stesse cose che fece 2000 anni fa, ed è per questo che io leggo queste storie, ed è per questo che come Chiesa noi vogliamo allinearci non a quella che è la nostra idea, non a quello che è il nostro ragionamento, non a quello che è il nostro pensiero di Gesù, ma vogliamo elevare il nostro pensiero su quello che Gesù e lo Spirito Santo è capace di fare nel nostro mezzo per pareggiarlo a quello che la parola di Dio ci dice. Gesù vuole fare miracoli oggi e tu sei chiamato a vivere una vita straordinaria. Io prego, è la mia preghiera, che tu non possa accettare la bugia del maligno che ti porta continuamente a credere che tu devi vivere una vita da miserabile, che tu devi rimanere nella depressione delle angosce e delle situazioni che ti schiacciano. Forse continuerai a vivere determinate circostanze, ma nella potenza del nome di Cristo Gesù tu avrai forza di poter affrontare ogni tempesta, anche tempeste più grandi di quelle che hai passato finora, perché Cristo Gesù, colui che fa cose straordinarie, dimora dentro di te. Questa sera vedremo l'esempio di questi quattro uomini meravigliosi, quattro folli che tentano di far entrare il loro amico alla presenza di Gesù. E quello che possiamo immaginare in questa storia, perché non tutti i dettagli sono ben descritti, ma lo possiamo immaginare molto bene, senza uscire fuori dal testo troppo, senza inventarci cose che sono fuori dalla realtà dei fatti. Quello che possiamo immaginare è che questi quattro amici un giorno decidono di portare il loro amico paralitico a Gesù, perché avevano sentito, e c'è scritto anche nei versi precedenti, si era sparsa la voce che questo Gesù era potente da fare miracoli, e a decine, a centinaia i malati venivano presentati a lui affinché lui li guarisse, affinché lui stendesse la sua mano, parlasse con la sua potenza della parola e ordinasse guarigione nei loro corpi e nelle loro vite. E quindi questa voce che si è sparsa è giunta pure a questi uomini, che hanno deciso, probabilmente anche mossi dal paralitico. Io credo che il paralitico ha avuto fede, notando dettagli della storia, e lui ha avuto fede nel credere che Gesù poteva guarirlo. E quindi che cosa fanno questi quattro uomini? Se lo caricano sulle spalle e si dirigono verso quella casa che tutti dicevano, si era sparsa la voce, era piena di gente che stava lì ad ascoltare l'insegnamento di Gesù. Ora, in questa casa loro non riuscirono ad entrare, l'abbiamo letto. E quindi possiamo immaginare che con questo paralitico sulle spalle tentano nella strada preferenziale, no? Tentano di entrare attraverso la porta d'ingresso. E la calca, la folla, era addirittura fuori dalla casa, si dice. Cioè, c'era talmente tanta gente che loro probabilmente hanno fatto dei tentativi, hanno chiesto alle persone di farsi in là, forse come la donna dal flusso di sangue, hanno sgomitato, hanno cercato di accedere alla presenza di Gesù, chiedendo un favore alla gente, di allargarsi, c'è un malato, stiamo portando un paralitico, vogliamo che Gesù lo guarisca, fateci largo. E forse le persone, anche di buon animo, si sono sforzati di farsi largo, ma quando la calca è troppa, non si crea un varco per entrare. E questi uomini ci insegnano qualcosa di importante. Ci insegnano che il primo tentativo non è quello che fa testo. Il primo tentativo non è quello che deve determinare il tuo percorso di vita. E io credo che Gesù questa sera vuole dire a me e a te non fermarti al primo tentativo. Vediamo questi uomini che impediti dalla folla, probabilmente uno di loro si avventura sul tetto, forse almeno per capire a che altezza della stanza fosse Gesù. Io presumo questo, che non c'è scritto, però lui sale sul tetto, probabilmente dà un'occhiata, alza qualche tegola, cerca di vedere attraverso qualche spiraglio dove fosse Gesù. E poi l'idea geniale, l'idea di mio fratello maggiore, di fare danni. E quindi in quel momento viene un'idea che comprendiamo essere mossa da un desiderio profondo di questi uomini di vedere il loro amico salvato, di vedere il loro amico guarito. Che cosa fanno? Dicono: ragazzi, perché non scoperchiamo il tetto? Perché non distruggiamo questa casa? Pur di far entrare il nostro amico e farlo arrivare alla presenza di Gesù. E così fanno. Ora, se andiamo a leggere dai testi originali, dal greco, noi ci rendiamo conto che i termini che vengono adoperati lì sono dei termini che parlano chiaro di un tetto che fosse rigido, di un tetto che fosse fatto di tegole rigide, pesanti, possiamo immaginare un'armatura, una struttura molto forte. Non un tetto di paglia, no? Come qualcuno ama magari immaginare questa storia, no? Perché è più politicamente corretto che loro sono andati lì, hanno scoperchiato questo tetto di paglia, ma invece il tetto era rigido, c'erano delle tegole e loro hanno dovuto lavorare, letteralmente si sono dovuti mettere lì e hanno dovuto scoperchiare all'altezza di questa casa il tetto per poi caricare il paralitico, rimediare delle funi, legare il lettuccio e calarlo lentamente dentro la casa davanti a Gesù. Questi uomini erano dei folli, caparbi, testardi, convinti, perseveranti, delle persone che non si sono fermate al primo tentativo. E sapete cosa? Io credo che Gesù vuole che noi impariamo ad avere questo tipo di carattere. Un carattere che ha una fede, che è convinta, che non si ferma al primo tentativo, che vuole a tutti i costi raggiungere l'obiettivo, che non vuole fermarsi davanti al primo impedimento, davanti alla prima barriera, ma vuole perseguire i sogni di Dio nella propria vita, sapendo che Gesù vuole operare e Gesù può operare, e tutto quello che ci sta chiedendo di fare è avere quella convinzione, quella fede che osa, che è folle e che va oltre. E la ragione per la quale io insisto tanto su questo, su questo aspetto di questi uomini, è perché è mia convinzione che Gesù ama questo tipo di fede, in quanto ha elogiato precedentemente o in altre occasioni altri uomini e donne di fede che hanno avuto questa caratteristica. Ci ricordiamo le storie, no? Le storie della donna cananea, che non si ferma alla prima supplica, che non si ferma al primo rigetto dei discepoli, non parlare, non sei degna, sei un cane. Lei va oltre, lei va avanti, lei insiste, perché conosce che quell'uomo, conosce che Gesù è Dio, perché lo chiama figlio di Davide, e sa che lui ha una benedizione anche per lei. Lo stesso vediamo in Bartimeo. Non si ferma dal gridare, quel cieco alla porta di Gerico, non si ferma quando i discepoli dicono a lui di tacere. E questo è quello che il Signore sta chiedendo a te. Non fermarti, non smettere di gridare, non smettere di insistere, non smettere nella tua supplica, non smettere nella tua costanza nel cercare la risposta di Dio, perché Lui ama operare e Lui vuole operare nella tua vita e lo vuole fare realmente. Non sono storielle, è vita concreta e reale. E quindi io non so dove ti trovi questa sera, non so qual è la tua lotta. E il mio invito è: abbi fede, una fede che non pretende da Dio, una fede che non è orgogliosa, una fede che non ti porta ad aspettare che Lui faccia qualcosa e con arroganza alimentare delle preghiere che lo disonorano, ma che hai una fede che è umile. Sapete, questi due uomini avrebbero potuto dire: e vabbè, ma se c'è questa folla, aspetteremo Gesù, aspetteremo che esce. E caspita, è quello che lui vuole fare, no? Lui guarisce le persone, no? Noi gli stiamo dando tutta questa importanza, tutta questa fama. Beh, dimostri che vuole guarire anche il nostro amico, dimostri che è veramente misericordioso. E a volte le nostre preghiere possono essere così, ma questi uomini hanno avuto l'umiltà di dire: se non è per questa strada, sarà per un'altra. E quello che percepisco da parte di Gesù è che lui ama questo tipo di atteggiamento, perché provate a immaginare la scena. Gesù è là che insegna, Gesù è lì che parla a questo gruppo di persone, e sopra la sua testa qualcuno sta facendo danni. E io credo che quando scoperchi un tetto di tegole rigido non puoi non far rumore, ma Gesù continua a insegnare, e Gesù continua a insegnare, e Gesù continua a insegnare, e non si fa distrarre da quello che sta succedendo. Avremmo potuto benissimo leggere che Gesù a un certo punto dicesse: oh, ma siete impazziti! Cioè, ma pure per amore per Pietro, no? Perché si presume che fosse la casa di Pietro quella lì, no? Allora Pietro, voi lo immaginate, il Signore è della barca, è dei pesci, e gli ho lasciato, e ti ho seguito, e mo pur la casa, e il tetto dobbiamo rifare, e abbi pazienza un po', no? Almeno per amore per Pietro, avrebbe potuto dire: fermatevi, dai, vengo io, ci fermiamo un attimo, qual è il problema? Una pausa di 10 minuti la possiamo fare tutti. Invece Gesù è lì che continua. E quasi sembra che li ignora, esattamente come sembra che ignori la donna cananea, esattamente come sembra che ignori il cieco di Gerico, il cieco Bartimeo, no? Alla porta di Gerico. Sembra che ignori questi uomini che stanno lì lavorando e scoperchiando un tetto, ma quello che Gesù sta facendo è semplicemente fare in modo che la fede sia messa all'azione in maniera completa da parte di questi uomini. Che ogni tegola che questi uomini rimuovevano diventava per Gesù una conquista del loro cuore, perché vedeva in loro la perseveranza, la lotta, il sudore, il sacrificio, e la fame aumentava, il desiderio aumentava, e loro non si fermavano, e Gesù non si fermava dall'insegnare e non si faceva distrarre, fin quando il lettuccio è arrivato davanti a lui e questo paralitico si è trovato faccia a faccia con Gesù. Solo lì noi troviamo che Gesù dice qualcosa. Il testo dell'Evangelo dice: Gesù, veduta la loro fede. Gesù non vide il paralitico, Gesù non vide la malattia, Gesù non vide il bisogno di quest'uomo. Quello che Gesù stava vedendo era la loro fede. Era la fede di quei 4 uomini sopra il tetto, di cui lui non conosceva né i nomi, né le persone, o meglio, Gesù è Dio, quindi conosceva tutti, però sapeva che quell'esercizio era utile per loro, per far esercitare quella costanza di fede. Posso dirti una cosa questa sera? Il Signore vuole che la tua fede sia messa in esercizio. Lui non ti fermerà dopo che hai dimostrato di togliere la prima tegola, no? Al primo digiuno. Oh, guarda che impressiona, fermi tutti, impressionante questa cosa, eh? Ha fatto digiuno, eh? Non ha mangiato pranzo per me, incredibile, io fermo tutto, perché no, Gesù probabilmente si aspetterà che tu insisti. E che il tuo esercizio di preghiera, le suppliche sono proprio questo, il tornare a Dio con la stessa richiesta di preghiera per esercitare una fede che cresce dentro di te e per allineare, ascoltatemi bene, non la tua volontà alla sua, ma la sua volontà alla tua. Perché scoperchiando tegole comincerai a comprendere, ecco, questo è quello che Dio vuole da me, ecco, questa è la risposta per questa domanda, ecco, questo è quello, e forse la guarigione non arriverà, forse l'intervento non arriverà subito, ma qualcosa di ancora più grande succederà nella tua vita. Lui avrà modellato e trasformato il tuo carattere a sua immagine e somiglianza, perché Gesù è il migliore esempio di perseveranza, di costanza, di sacrificio e di non mollare, non fermarsi al primo ostacolo. Infatti lui è arrivato fino alla croce ed è morto per noi. La fede che ci deve caratterizzare deve essere una fede che è insistente. La fede che ci deve caratterizzare non deve essere una fede necessariamente che grida, come è stata quella del cieco. Non deve essere necessariamente una fede che supplica, come è stata quella della donna cananea. Non deve essere una fede che necessariamente sgomita, come abbiamo sentito upside down venerdì predicato, la fede della donna dal flusso di sangue. Probabilmente deve essere una fede che non fiata, ma si muove in azione. E dimostra con la propria azione di volere tutto quello che Dio ha in serbo per te. Gesù ci insegna attraverso questo suo aspettare la completa discesa di questo lettuccio, che lui ad ogni centimetro di discesa del lettuccio sta conquistando centimetri nel tuo cuore, ed è quello che vuole fare nella tua vita. Un altro aspetto che noi impariamo da questi quattro uomini è la fame della sua presenza. Ora vorrei che voi comprendeste bene questo aspetto, perché questo è probabilmente l'aspetto principale che sento di condividere a noi come Chiesa, perché io credo che sia aperta e si sta aprendo una nuova stagione per noi come Chiesa, dove noi dobbiamo comprendere l'importanza di avere fame della sua presenza. Che cosa voglio dire con questo? Che Gesù era presente in quel luogo. E in quel luogo, a pochi centimetri di distanza, c'erano uomini che stavano ascoltando il suo insegnamento. Erano alla presenza del Dio onnipotente. E quello che noi vediamo nei Vangeli è che erano migliaia le persone che avevano un incontro con Gesù. Erano migliaia le persone che lo toccavano, parlavano con lui, discutevano, ascoltavano i suoi insegnamenti e lo vedevano in azione. Eppure non tutte le persone che hanno avuto un incontro con Gesù hanno beneficiato della benedizione della sua presenza. Perché la benedizione della sua presenza sta e parte da una fede e da una fame di quella che è la benedizione che lui ha per te, per la tua vita. Se tu sei lì, come erano lì quegli scribi e i farisei, che erano pieni di dubbio, pieni di scetticismo, erano lì per giudicare le parole di Gesù, allora anche tu, in quella condizione di chiusura del cuore, di chiusura di vita, di autosufficienza, pur avendo Gesù a pochi centimetri di distanza, non beneficerai della benedizione della sua presenza. Noi possiamo riunirci qui domenica dopo domenica, io vi assicuro che in questo momento Gesù è presente in questo luogo. Anche se tu non lo vedi, anche se tu non lo puoi toccare fisicamente, lui è presente qui in questo luogo ed è a pochi centimetri da te. La differenza è che però se il tuo cuore rimane chiuso, è distante, tu non potrai beneficiare della benedizione della sua presenza. Quegli uomini, quei quattro uomini, sapevano che alla presenza di Gesù c'era benedizione per il loro amico e anche per loro stessi. Ed è per questo che hanno avuto una fame e un desiderio talmente forte da portarli a fare ogni cosa. È un'attitudine completamente diversa quella che noi vediamo di questi uomini sul tetto rispetto agli uomini nella stanza. Ed è probabilmente questo il problema più grosso che noi come credenti possiamo vivere. Perché non siamo fuori dalla porta, ma siamo dentro nella stanza. E siamo a pochi centimetri da Gesù, ma i nostri ragionamenti e il nostro cuore è chiuso a ricevere le benedizioni che ci sono e che possiamo afferrare alla sua presenza. Qual è la tua condizione? Quanta fame hai della presenza di Gesù nella tua vita? Quanta fame hai della sua parola per te? Quanta fame hai del suo intervento, della sua guida, della sua direzione, del suo prenderti e guidarti e stravolgere la tua vita e darti un destino di vita? Questo determinerai come uscirai da quella stanza. Questo determinerai come uscirai dalla presenza di Dio. Abbi fame della presenza di Dio, abbi consapevolezza che alla presenza di Dio ci sono benedizioni in abbondanza per te e che Dio non si è fermato dal benedirti, ma vuole benedirti ulteriormente, benedicendo ogni nuovo giorno della tua vita per fare della tua vita qualcosa di straordinario e non ordinario. Ma abbi fame, questa è la chiave per ricevere quelle benedizioni che Gesù ha. Se tu stai lì, sufficiente a te stesso, che credi di sapere, che credi di poter vivere questa vita in autonomia, che credi di saper meglio di Dio quello che è giusto e buono per te, che credi che Gesù ha già fatto abbastanza per te, che non c'è altro, quello che succederà è che rimarrai dietro a un tetto invisibile. Sapete, in quella stanza non erano solo questi quattro uomini a dover rimuovere delle tegole. In quella stanza gli scribi che erano lì presenti avevano anche loro da rimuovere delle tegole. E le tegole che loro dovevano rimuovere erano tegole di ragionamenti, di convinzioni, di verità. Verità giuste. Sapete, la cosa interessante di questa storia è che i farisei dicono a Gesù una cosa che è assolutamente vera. Dicono a Gesù: tu stai bestemmiando perché un uomo non può perdonare i peccati. Ed è così, è una verità biblica. Nessuno al di fuori di Dio può perdonare i peccati. Nessuno al di fuori di Dio può dire: i tuoi peccati sono rimessi e tu puoi avere la tua vita salva. Nessuno, solo Dio. Il fatto è che il loro cuore era talmente duro da non rendersi conto che chi avevano davanti non era semplicemente un uomo, ma colui che avevano davanti era esattamente il Dio vivente, che si era fatto carne ed era sceso nella forma di Cristo Gesù per salvare l'umanità. Quanto è chiuso il tuo cuore nelle tue verità? Quanto è chiuso il tuo cuore nelle tue convinzioni? Possono essere giuste, possono essere buone, possono essere anche bibliche, ma lo Spirito Santo ti sta invitando ad essere malleabile, a lasciarti guidare, a lasciarti toccare. E Dio ti sta invitando, scusate, questa sera a rimuovere tegole, le tegole dei tuoi ragionamenti. Questo peccato non può fare danno. Questa situazione, Dio la perdonerà, ed è vero, Dio perdona ogni tuo peccato, ma quella non è la condizione di vita migliore che Dio ha per te. Rimuovi le tegole, lasciati guidare, lasciati toccare, abbi fame della sua presenza nella tua vita, perché questo farà la differenza. Io vorrei che ci alzassimo in piedi, mentre il gruppo lode viene e ci guiderà adesso in un breve momento di lode e adorazione. Io vorrei che noi, chiunque in questa stanza ha il desiderio di mettere in pratica da subito questa parola, noi possiamo ricercare la faccia di Dio. Noi possiamo ricercare in una maniera nuova la sua presenza nella nostra vita, perché, fratelli, sorelle, amici, è la sua presenza che fa la differenza. È la sua presenza nella tua vita che fa la differenza. E se tu dai accesso a Lui di operare, di toccare, di guarire, Lui lo farà. C'è un verso in Apocalisse che dice, proprio Gesù che dice: io sono lì alla porta e busso. Vedete, lì Dio esprime tutto il suo desiderio. Lui vuole entrare nel tuo cuore. Lui vuole entrare nella tua vita. Lui vuole essere parte di te e vuole guidarti verso una vita che sia vissuta in una maniera straordinaria. E poi dice: a chi apre? A chi apre? A chi apre? E io vorrei trasformarla in una domanda a questo: chi apre? Chi di noi questa sera vuole aprire? A chi apre? Gesù dice, promette: io entrerò e cenerò con Lui. Avrò intimità con Lui e il Signore ci sta chiamando a vivere un'intimità nuova. E guardate bene, questo messaggio non vale per questa sera. Io credo che lo Spirito Santo ha guidato profeticamente Letizia nell'aprire questa serata. Perché noi non viviamo questo incontro e questa riunione fino a se stessa, per avere adesso una bella esperienza con Dio, per toccarlo, per sperimentarlo, per viverlo. Questa sera ha senso se tu riporti tutto quello che hai ascoltato, tutto quello che hai vissuto a domani mattina e a dopodomani, quando la tua fame, tu ti assicuri che continua ad essere alimentata, la tua voglia di salire su quel tetto e rimuovere tegole continua ad essere viva dentro di te. Prima di vivere questo tempo di adorazione dove cerchiamo la presenza di Dio, io vorrei che tutti noi potessimo chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo. E io voglio rivolgermi, mentre rimaniamo in questa attitudine di preghiera, io voglio rivolgere alcune parole a chi è venuto qui per la prima volta questa sera. A chi ha sentito questo tipo di messaggio per la prima volta e che forse per la prima volta ti rendi conto che ci sono delle persone che credono realmente e radicalmente in un Gesù che è vivo e possono dare testimonianza di questa realtà. Se tu sei qui per la prima volta e non hai mai aperto il tuo cuore a Gesù, io ti chiedo di farlo questa sera. Io ti chiedo di aprire il tuo cuore a Gesù e di permettere a Gesù di entrare nella tua vita e di avere accesso, di pulire il tuo cuore da ciò che è sporco, di lavarlo e di portare una nuova vita, un nuovo inizio per te. Se tu sei quella persona, mentre tutti continuiamo a mantenere i nostri occhi chiusi, il capo chino, io voglio chiederti semplicemente di alzare la tua mano affinché io possa vederti e affinché poi possa pregare per te. Non voglio metterti in imbarazzo, voglio semplicemente vedere quante persone questa sera aprono il loro cuore davanti a Dio e questo gesto lo fai davanti a Lui, non tanto per me. Quindi se tu sei quella persona, alza adesso la tua mano, c'è qualcuno che dice: io questa sera voglio Gesù. Grazie sorella, vedo una mano qua, grazie. Grazie dietro, in fondo, grazie. Grazie, grazie. Che bello, mani si alzano dappertutto in questo luogo. E cuori, ancora di più che mani, si aprono a Gesù. Che bello, c'è qualcun altro che dice: io voglio ricevere Gesù questa sera nel mio cuore, io voglio che Lui purifichi il mio cuore, io voglio che Lui mi dia un nuovo inizio. C'è qualcun altro che dice: io voglio Gesù, grazie, grazie, vi vedo. Che bello, ragazzi che arrendono il loro cuore a Gesù, non c'è cosa più bella. Grazie, ti vedo in fondo, alleluia. Che bello. Vogliamo pregare con queste persone, Chiesa? Vogliamo guidare queste persone in una preghiera? Se tu hai alzato la mano, ora la puoi abbassare. E voglio chiederti di ripetere questa preghiera con me. E noi come Chiesa ti accompagneremo affinché non sei solo a ripeterla, ma nel ripetere queste parole, invita veramente in una maniera sincera e spontanea Gesù nella tua vita. Ripetiamo insieme: Signore Gesù, ti invito nel mio cuore. Ti prego di perdonare i miei peccati, di cancellare ogni errore, di togliere ogni sporcizia e di darmi un nuovo inizio davanti a te. Io voglio camminare, io voglio correre, non voglio rimanere paralitico. Grazie Gesù perché mi ami e io voglio riceverti nel mio cuore. A partire da questa sera, voglio seguire te, Gesù. Con tutto il mio cuore voglio seguire te, Gesù. E aiutami a conoscerti meglio. Amen. Amen. Amen. Amen. E so che ci stiamo prolungando questa sera, però sento che è così importante. Sento che è importante che tu afferri quella che è la benedizione che c'è alla presenza di Dio. E che questa sera tu lo cerchi. E che chiedi a Dio di inondarti di più della sua presenza. Di più della sua presenza. E forse questa sera non hai le forze neanche di dire: Signore, aiutami, intervieni, guariscimi, porta la tua presenza in me. Però puoi fare una preghiera e puoi chiedere al Signore: Signore, rimetti fame in me, rimetti sete in me, rimetti quella fame in me. Oh, è la mia preghiera che il Signore possa rimettere una fame della sua presenza in ciascuno di noi, che noi possiamo desiderare e bramare Lui più di ogni altra cosa. Mentre con il gruppo Lode adoriamo con questo canto, io chiedo che tu possa fare la tua preghiera a Dio. Non voglio essere io a pregare per te, voglio che tu cerchi la sua faccia e che tu prendi gli impegni che vuoi e che desideri prendere questa sera davanti a Lui. Lo vogliamo fare? Forza.